Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi ho invitato a iniziare con noi la giornata il professor Renzo Rozzini, che è già in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Bentornato, direttore. Grazie. Del Dipartimento Medico dell'Ospedale Poliambulanza di Brescia e specialista nei problemi dell'invecchiamento. Professor Rozzini, lei che si intende di invecchiamento e quindi di anziani, ma quando voi medici parlate di anziani, è una definizione che fa riferimento all'età anagrafica, quella biologica? Proviamo a capire, l'aspetto centrale ovviamente è l'anagrafe, nel senso che una persona di 40 anni ha 40 anni, una persona di 90 anni ha 90 anni, quindi quello non è ineludibile l'aspetto. Tuttavia esiste una variabilità nelle persone che hanno 90 anni, come pure c'è a 40 anni anche se inferiore, e quindi ci sono altri aspetti che devono essere considerati per definire il profilo della persona. Noi consideriamo una persona che ha dei bisogni specifici, per i quali cioè chi si occupa di invecchiamento può dare di più, una persona che ha compiuto 75 anni, nel senso che a quell'età ci sono alcuni bisogni che devono essere considerati o sono già presenti o devono essere considerati come prossimi. Ma se volessimo dare una definizione più operativa, potremmo dire che il punto di riferimento è quello relativo alla funzione, vale a dire alla capacità di fare le cose che si sono sempre fatte, e tra queste noi dobbiamo considerare le cose di base, le cose per vivere autonomamente, vale a dire i farmaci, la cucinare, piuttosto che la gestione delle finanze, l'uso dei mezzi di trasporto, o ancora un altro aspetto centrale è l'energia, cioè la presenza di energia che permette alle persone di fare le cose che non sono necessarie ma comunque che colorano la vita, le relazioni sociali, frequentare dei gruppi di amici, fare viaggi, eccetera eccetera. Quindi il profilo di una persona di età avanzata si definisce da un lato con l'età ovviamente, ma anche dalle cose che lui è in grado di fare o che ha mantenuto diciamo integre col passare del tempo. Quando queste cose vengono meno si comincia ad avere a osservare quegli acciacchi che definiscono appunto l'inizio dell'invecchiamento. Professore, gli anziani durante l'emergenza Covid sono state tra le categorie più fragili, sono stati colpiti duramente dal Covid-19, ma sono stati anche segnati dal cambio dello stile di vita che l'emergenza naturalmente ha imposto. Si sono dovuti mettere gioco forza ancora più ai margini, e forse anche questo ha secondato quella tendenza che è tipica di alcuni anziani a chiudersi. Tutto questo ha portato e si è tradotto in una grande difficoltà, in un disagio emotivo che è sotto gli occhi di tutti. Professore, da qua si deve uscire. Quali sono gli aspetti su cui fare leva? Beh, questa osservazione è importantissima, perché quello che è successo ha prodotto e produrrà nei tempi prossimi una diversa accettazione dell'uso del tempo e degli spazi che, alle quali noi eravamo abituati, vale a dire oggi noi abbiamo una ridotta mobilità, viaggiamo molto di meno, siamo condizionati a viaggiare molto meno, abbiamo una maggiore disponibilità di tempo a stare in casa, ma è quello di cui non avevamo bisogno, abbiamo rarefatto i rapporti, anche quelli fisici, anche quelli più banali, e quindi siamo portati in qualche modo a rimodulare il nostro stile di vita, che già in alcune persone di età avanzata era tendente alla riduzione, ad una contrazione. Questo è negativissimo, e d'altro canto è pur vero che noi dobbiamo continuare a rispettare le regole necessarie per mantenere una salute in condizioni di post-Covid. Quindi bisogna trovare una sorta di equilibrio nuovo, a quale io realmente ho pensato seriamente, ho pensato anche quali potessero essere i consigli da dare, cioè come si può, salvaguardando le regole e gli stili di vita salutari, cioè che salvano la persona da eventuali contagi, diciamo riducendo i pericoli di un ulteriore isolamento. E questo, certo, diciamo, è l'aspetto al quale io ho pensato in questo periodo, pensando ai pazienti che mi faranno, mi fanno già ora delle domande. E che cosa consiglia lei, professore? Ma ho cercato di essere un po' trasgressivo in questa in questo pensiero, nel senso che facendo riferimento a quello che si deve fare dopo le grandi pandemie o dopo le grandi difficoltà. Dopo le grandi pandemie, dopo le grandi difficoltà, bisogna avere dei comportamenti che sono tipici di quelli dei giovani e non quelli della diciamo della contrazione delle attività. Cioè bisogna fare quello che quando dopo un conflitto bellico si deve ripartire, le forze devono essere tutte messe in mano ai giovani leader, che sono quelli che hanno l'energia. Io penso dobbiamo prendere gli stili di vita dei giovani e adottarli in età avanzata, cioè fare quelle cose che abitualmente noi non facciamo perché siamo più attenti a un'armonia di vita meno dispendiosa, e quindi direi quello che io penso, che le persone di età avanzata devono essere finalmente trasgressive e finalmente orientate verso la futilità. Innanzitutto dobbiamo fare dei programmi precisi e cercare di rispondere a questi programmi, perché farlo soltanto da sognatori può essere una consolazione ma non è utile. Allora faccio un programma di cose mai fatte e devo portarle a termine, anche cose semplici, anche all'interno di un contesto urbano e così via. Devo scoprire delle cose che non ho mai visto nella mia città. Mi faccio un programma, ne faccio una volta alla settimana. Per quest'estate ci sono 8 settimane, ecco, ogni settimana io devo andare a visitare un luogo che non ho mai visto nella mia città, degli 8.000 luoghi che non ho mai visto nella mia città, e andare a scoprirlo essendone informata, comprendendo poi il significato ha e perché quel luogo è così caratteristico. Poi nelle relazioni direi una cosa che si deve fare è telefonare alle cose, andare a ripescare le persone che da tantissimo tempo non si sono viste, e farlo come esercizio proprio portato a termine, e andare a telefonare a queste persone, un atto di volontà che rompe le abitudini che sono invece, come dicevo prima, più concentrate verso una riduzione delle attività. Cioè io ho 10 persone alle quali che non sento da tantissimo tempo, ecco, io prendo in mano il telefono e telefono a queste persone, raccontando come sto io, facendomi raccontare come sto loro e eventualmente trovando un incontro con loro. E poi ancora essere un po' creativi da questo punto di vista. E poi ancora un altro scherzo che io propongo è quello di non dire mai quello che si pensa, ma dire esattamente il contrario, cioè spiazzare l'avversario. Allora sostanzialmente io credo che dobbiamo avere un'attitudine verso le cose che dobbiamo fare, verso la vita, in questa fase qui soprattutto, in cui siamo stati tutti più concentrati verso la conservazione, ha un'attitudine verso l'apertura. L'apertura che deve essere proprio una sorta di trasgressione a questo clima che abbiamo dovuto vivere e che ci permetterà di uscire in condizioni più integre possibili dal punto di vista psicologico, ma anche dal punto di vista fisico, da una situazione di stallo nella quale rischiamo di andare a metterci. In questa stagione, appena arriva il caldo, proprio agli anziani si sentono ripetere ogni anno le stesse raccomandazioni: stare a casa, stare al fresco, ricordatevi di idratarvi, di bere. Insomma, sono dei consigli che tutti noi già conosciamo e sicuramente li conoscono anche gli anziani. Io vorrei che lei oggi ci aiutasse a individuare invece che cosa un anziano deve fare, che cosa deve fare attenzione, oltre naturalmente a condurre uno stile di vita che lo protegga dal caldo. Pensiamo ad esempio alle persone anziane che devono prendere più terapie, faccio un esempio, ma pensiamo a delle persone anziane che non possono svolgere quell'attività fisica quotidiana che voi raccomandate, 20 minuti di passeggiata, naturalmente al fresco. Professor Rozzini. La trasgressione è possibile soltanto quando noi seguiamo delle regole di base. C'è un brano di un poeta americano che dice: bisogna essere onesti se si vuole vivere al di fuori della legge. Allora la legge deve essere rispettata. La legge per la buona salute è tutte quelle informazioni che da anni chi si occupa di problemi di invecchiamento dà alle persone dell'età avanzata. Una piccola diciamo particolarità, che le persone dell'età avanzata le conoscono bene, ma non le fanno quasi mai, direi raramente le fanno. Allora, la passeggiata 2 volte al giorno di 20 minuti deve essere fatta. Non puoi fare la passeggiata, fai 2 volte al giorno nella tua casa, un giro della casa alle 8 di mattina e alle 8 di sera. Non puoi camminare, ti metti davanti a un tavolo con una sedia da cucina senza braccioli e 5 volte ogni ora ti alzi dalla sedia e ti siedi. Devi mangiare frutta e verdura, non bisogna dirlo soltanto, bisogna che nell'arco della giornata 2 o 3 frutti vengano messi sul tavolo e debbano essere mangiati. Deve bere liquidi, bene, ogni ora si prende un bicchiere di acqua e la persona beve un bicchiere di acqua. Quindi le grazie cose al professor Rozzini per essere stato con noi, torni presto a trovarci, a Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, a Lorenzo Nespoli in assistenza, a Laura Vanossi in redazione. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e mi raccomando, andate a fare un saltino anche sulla pagina Facebook del programma dove trovate tanti consigli e le nostre interviste. Buona giornata!